Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Sai che penso? Allora mi vedo ma vedi me monti a cessa d'annunzia rivedo righi e me sa stranze o che vedo a lanterna a cavalla rume rivedo a sei a zena. Colpa e merito del porto, grande luogo di scambi. Solo le città di mare possono avere quel fascino contraddittorio che fonde il malaffare con il romanticismo. Barcellona, Marsiglia, Napoli e poi, naturalmente, Genova. I genovesi, additati dalla diceria popolare di avarizia, nella storia hanno sempre invece amato circondarsi di arte, palazzi, oggetti preziosi. Lo si vede camminando per la città, sulle cui strade si affacciano ancora i palazzi che evocano un antico splendore, mentre appena dietro i carruggi ospitano un popolo variegato e sofferente che ha tanto cantato De André. Già, De André, innamorato della sua superba, come sempre stata chiamata Genova, innamorato degli scorci poco illuminati dei Creusa, i vicoli stretti del centro storico, innamorato della sua umanità orgogliosa, geniale e un po' pazza, innamorato delle vecchie botteghe e dei bar malfamati dove si incontrano prostitute, poveri, delinquenti. Pare che persino Attila si sia fermato di fronte al mare. Attila sicuramente non era un buon marinaio, ma può darsi che di fronte al mare gli sia bastato sedersi ed immaginare. Il mare separa e unisce popoli e continenti. Nel momento in cui li separa, direi che ti stimola il sogno, la fantasia. Nel momento in cui li unisce, vale a dire nel momento dell'intrapresa del viaggio, ti mette a rapporto costante con la realtà. La complicità del mare, essenza di chi vive a Genova, diventa spesso poesia. E non è un caso se la città con la sua lingua e le sue tradizioni è stata spesso la culla di artisti. Molti nell'urgenza espressiva hanno trovato la loro consolazione. Altri hanno cominciato a suonare perché della musica sentivano di non poter fare a meno. Da ponente a levante, dal mare e su per le strade ripide che scalano i monti, si susseguono i luoghi immortalati dalla grande scuola genovese. Paoli, De André, Bindi, Tenco, Lauzi, Fossati sono le storie di canzoni e cantautori raccontate dallo studioso Marzio Angiolani. La storia dei cantautori genovesi è una storia di incontri, essenzialmente. Incontri alle volte che passano attraverso il tempo, attraverso lo spazio. È una storia di fughe, di viaggi di fuori di Genova per lo più. Però è anche vero che ci sono davvero molti intrecci tra di loro. Quello che colpisce è che in qualche modo questo concetto di riferimenti genovesi continua ad esistere, a crescere. La maggior parte dei cantautori e dei cantanti poi per avere successo è dovuto andare via da Genova. Genova forse è la città più abbandonata della storia della musica italiana, però al tempo stesso a Genova si torna e al tempo stesso Genova rimane dentro. Un percorso contraddittorio di tanti, quello di lasciare un luogo dell'anima per poi tornarci, incapaci di stare lontani per troppo tempo. È il percorso che ha fatto anche un artista genovese doc che ha sentito il bisogno di spingersi fino in India per poi tornare indietro. Vogliamo raccontarvi la sua storia. Lei è Antonella Ruggero. Sì, poi sono tornata e ho veramente scoperto la bellezza, la meraviglia del nostro paese, della nostra storia, della nostra cultura. Quindi uno a volte ha voglia di andare molto lontano per poi, ritornando, rendersi conto di quali meraviglie ha sotto mano, proprio dietro l'angolo. E questo lo sto scoprendo tutti i giorni. Liberi, qui dentro noi viviamo. Date, 50. Chilometri percorsi, 20.000. Canzoni cantate, 19. Frigoriferi al seguito, 1. Computer, 3. Bottiglie d'acqua bevute ogni giorno, 50. Bastoncini d'incenso bruciati, 500. Durata di ogni concerto, 1 ora e 45 minuti. Sono questi i numeri medi del tour di Antonella Ruggero, che ogni volta cerca di toccare più città possibili per accontentare tutti, per non deludere nessuno. Ciao! A spingerla in tutto ciò che fa è sempre un'intensa voglia di scoperta. Artista a tutto tondo, Antonella Ruggero è cambiata molte volte nel corso della sua carriera e ha vissuto molte vite, sempre rimanendo fedele a se stessa e alla sua profonda urgenza di sperimentare. Riempire la propria valigia, riempire la propria mente, la nostra curiosità. Cioè, voglio dire, noi siamo dei curiosi, perché se non fosse così, io canterei delle canzoni diciamo più di facile ascolto, ripeterei i miei vecchi successi all'infinito. Io non sono per questo, sono per accumulare il sapere il più possibile, e nella valigia giustamente devi mettere ciò che trovi in strada di interessante, tralasciando mille altre cose che ovviamente non ti toccano, non ti interessano, anche se sono cose apparentemente a volte ritenute straordinarie, ma se non ti toccano, per te non c'è nulla. Il 15 novembre del 52, quando Antonella Ruggero viene alla luce, a Genova si trascina ancora quella bella stagione che dura da aprile. Per la verità qui non fa mai davvero freddo. Nella maggior parte delle case il riscaldamento non c'è e non serve nemmeno, perché anche nei giorni più freddi d'inverno la temperatura non scende mai sotto i 10 gradi. Riflessiva e curiosa di tutto quello che succede intorno a lei, la Ruggero disegna continuamente su tutto quello che trova e sembra una bambina con le idee molto chiare. La mia idea da ragazzina era quella di fare la pittrice. Già, la pittrice. Ha un'idea molto romantica Antonella di questo mestiere. Un cavalletto in mezzo alla strada, tavolozza in una mano e con l'altra un pennello che cerca di riprodurre il mare davanti. La solitudine della creazione, il tormento delle idee che non arrivano, un impeto di velocità quando arriva l'ispirazione e c'è da correre a dipingere per non perderla. Insomma, tutto quello che fa un pittore è nell'immaginario partorito da secoli di immagini e letteratura. Finché i genitori, come spesso succede, la portano sulla strada della concretezza, senza l'obbligo di abbandonare l'arte, ci mancherebbe, solo con il consiglio di trovare il giusto compromesso con la fattibilità di un mestiere. Ed è così che Antonella prende la decisione di iscriversi all'Istituto d'Arte con lo scopo di diplomarsi in grafica. È seria, preparata, è felice di fare una volta uscita da scuola proprio quello per cui ha studiato, in uno studio pubblicitario di Genova. Intanto si accorge che ha un altro talento da non sprecare, la sua voce. È un dono di natura, alla base c'è questo. E poi, nel momento in cui, parlo per me ovviamente, poi ognuno ha la sua storia, ma nel momento in cui ho iniziato a cantare mi sono resa conto anche del privilegio di avere un talento, quindi di utilizzarlo al meglio. E io vivo di accenti, di presentimenti, profumi che sento nell'aria, e vivo di slanci, di moti profondi, fugaci momenti di gloria. Mattia, come Matta in genovese. È questo lo pseudonimo che Antonella Ruggero sceglie per presentarsi al pubblico per la prima volta, quando nel 74, giovanissima, comincia la sua carriera artistica da solista. L'album d'esordio è un 45 giri che si intitola quasi a ricordarlo a se stessa, prima che agli altri, Io, Mattia. La scelta di usare il suo dialetto non è casuale. Per lei le radici rappresentano la vera identità nella quale riconoscersi. In poche parole, il dialetto non è altro che la rappresentazione proprio di un'umanità con le sue caratteristiche ben precise, con il territorio suo che viene appunto raccontato, con una storia che fa sì che l'Italia diventi, appunto, venga raccontata attraverso questo puzzle fatto di varie umanità, ed è molto interessante. Per Io Mattia non si può certo parlare di successo, ma già solo il fatto di averlo pubblicato è per Antonella una spinta a mollare il lavoro da grafica per cominciare a cantare a tempo pieno. La sua voce se ne accorge da sola, ma glielo dicono tutti, è unica davvero. Può toccare note altissime, intensa, potente. Ecco perché come corista ha un certo giro, La vogliono perché può dare davvero una marcia in più a ogni brano, modulando le corde vocali come fossero uno strumento. Ah, ho la fortuna di avere più repertori, tutti molto interessanti, e lavorando con formazioni diverse. La Genova degli anni 70 è vivissima dal punto di vista culturale, ed è la musica in particolare che qui trova terreno fertile per esprimersi. A Sturla, antico borgo di pescatori diventato quartiere della città, c'è il mitico ristorante Da Gianni del signor De Scalzi. È lui che a suon di trofi al pesto e farinata corrompe i discografici che vanno sempre lì a mangiare. Vuole a tutti i costi che sentano le canzoni di suo figlio Vittorio e dei suoi amici. Tanto sono sempre lì nel retro a provare quei bravi ragazzi che sognano il palcoscenico e che si fanno chiamare New Trolls. E Sturla per me, cioè essere qui in questo momento su questa spiaggia per me è comunque emozionante, anche perché adesso ci passo più raramente perché non c'è più il ristorante di mio padre, mi viene un po' di tristezza. Già, succedono molte cose all'osteria Da Gianni. I New Trolls scrivono qui con i testi di De André senza orario e senza bandiera. Si incontrano il poeta e paroliere Riccardo Mannerini e i fratelli Reverberi. Giampiero, il cui primo lavoro d'arrangiatore è stato La Gatta di Gino Paoli e che poi fonderà i Rondò Veneziano. E Gianfranco, collaboratore a Milano di Gaber e Iannacci. Ancora, sempre qui si riuniscono i dialettali come Francalai e i seguaci del beat. Tra un bicchiere di whisky e un caffè, per dirla come Gino Paoli, tutti insieme tirano fuori discorsi e canzoni. Ci passa ogni tanto anche Antonella Ruggero, che è molto più giovane degli altri, ma che pian piano si sta facendo conoscere nell'ambiente per via della sua voce che incanta. Ha iniziato da poco a collaborare come corista con due ragazzi che hanno fondato un gruppo che si fa chiamare i Jet. I Jet hanno affittato una sala a poco meno di 200 metri dall'osteria. E dopo tante ore che provano, non c'è niente di più bello di trovare Gianni ai fornelli pronto a cucinare per loro tutto quello che vogliono. Sempre con un sorriso e qualche battuta in genovese. I Jet, alias Carlo Marrale, Piero Cassano e Aldo Stellita, sono il primo magnifico incontro del destino di Antonella Ruggero. Io mi reputo abbastanza legata a ciò che è apparentemente semplice, ma ha una profondità infinita, no? E questo mi porterà per sempre a continuare e ad andare a cercare i sentieri più che le strade belle comode, perché è proprio attraverso il sentiero che trovi delle meraviglie lungo la strada e così sarà per sempre. Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te, di notte l'amore, l'amore è sempre una sorpresa per me. Puoi respirare il profumo del mare, mentre dal vento tu ti lasci cullare, fare il signore col mendicante, non scordarsi mai però di essere anche amante. Stasera, che sera, stare tutto il tempo di notte. I Jet sono giovani, intraprendenti e con una grande voglia di divertirsi. Fanno una musica a metà strada tra il progressive e il melodico. È da poco che provano in una specie di sala prove, diciamo un circolo attrezzato che hanno affittato con altri musicisti per dividere le spese. Ed è ancora da meno che hanno chiamato Antonella Ruggero a fare i cori, accorgendosi che una voce femminile, in effetti, mancava. Il loro primo album è Fede, Speranza e Carità. E nel 73 si presentano perfino a Sanremo, la vetrina italiana più appetibile, con il brano Anika Now. Già difficile da ricordare il titolo, figuriamoci la canzone. Si commenta nei bar dove le TV sono accese per seguire l'evento in compagnia. Ecco perché, visto lo scarso successo, i Jet sentono che è arrivato il momento di una svolta. Con la Ruggero e l'ultimo nuovo acquisto, Giancarlo Golzi, nascono i Mattia Bazar. Mattia perché è un mio soprannome. Bazar perché abbiamo sempre voluto fare tutto da noi, dalle canzoni agli arrangiamenti, ai testi, all'organizzazione delle tournée, per cui è un bazar il nostro, in tutti i sensi. Grazie all'inconfondibile voce della Ruggero e all'indiscutibile talento degli altri quattro musicisti, i Mattia Bazar incontrano fin da subito i favori del pubblico. Nel 75 sono a Un Disco per l'Estate, dove presentano la canzone Stasera che sera. Nello stesso anno escono i singoli Per un'ora d'amore e Che male fa. Il primo album, Mattia Bazar 1, arriva nel 1976 e un anno dopo sono a Sanremo con il brano Ma perché? Cui fa seguito l'album Gran Bazar, un successo straordinario. Solo tu, usata per una divertente pubblicità di una nota marca di gelati, viene tradotta in spagnolo, dando inizio a una carriera internazionale. Di solito non è che la vita dell'artista nasca e finisca sul palco. Non è solamente il suonare, ma ci sono mille altre cose da dover curare che chiaramente mandano avanti tutta un'organizzazione, anche perché non siamo solamente noi cinque a lavorare, ma ci sono molte molte persone, molti collaboratori, siamo 25 persone, per cui bisogna mandare avanti l'azienda appunto nel miglior modo possibile. Il successo dei Mattia Bazar è travolgente. Vincono Sanremo con Dirsi Ciao, partecipano all'Eurovision Song Contest e sfornano colonne sonore da festival bar. Mentre la musica dei Mattia Bazar supera i confini nazionali con le traduzioni in spagnolo e inglese dei loro brani più celebri, Aldo Stellita ribadisce al gruppo l'importanza di non perdere di vista la realtà genovese, perché le origini comuni sono un collante fondamentale e un modo per rimanere sempre coi piedi per terra. In questo circolo, che erano delle sale prova dove oltre che a noi si esibivano tutti i cantanti e gli strumentisti così genovesi, ha dato la possibilità di formarsi al Mattia Bazar e chiaramente anche a tanti altri musicisti che hanno cercato e cercano tuttora di uscire fuori da Genova, che è una città molto provinciale, molto chiusa, però a livello creativo è molto prolifica. Quindi chiaramente quando un musicista genovese esce fuori dalla sua cerchia di provincia e riesce ad entrare magari nei grandi giri, che sono quelli milanesi, romani, che un pochettino dettano legge per quanto riguarda la musica leggera italiana, chiaramente riescono a dire la loro. E Antonella Ruggero da dire ha davvero moltissimo. Ai magnifici destini siamo all'inizio degli anni Ottanta e i Mattia Bazar spopolano con canzoni entrate nella storia. La voce del gruppo è quella di Antonella Ruggero, la nostra protagonista di oggi, versatile al punto da passare con facilità dal registro pop a quello lirico di soprano leggero. In Italia abbiamo la fortuna di avere occasioni di concerti di ogni genere, di musica classica, sacra, musica tradizionale, insomma siamo ricchi di cultura e la gente la va a cercare, la va a trovare, e quindi voglio dire, io vado avanti perché solo così per me ha senso fare quello che faccio. Quella dei Mattia Bazar è una specie di famiglia. Sono tutti e cinque cresciuti nella fertilità artistica di Genova, hanno più o meno la stessa età e mescolano spesso il palco con la vita. Una cosa che a Piero Cassano, che crede fortemente nel progetto e ci ha sempre creduto, piace moltissimo. Il Mattia Bazar è effettivamente un bazar pieno di amici e quindi noi, oltretutto, diciamo che questo nostro modo di vivere non è che lo adottiamo sul palco, ma lo adottiamo anche fuori, anche nella vita normale. Viviamo anche tutti abbastanza vicini, e quindi proprio di casa, e quindi insomma abbiamo sempre occasione di incontrarci anche quando non siamo in tournée. Quando il successo travolge, si innesca un meccanismo vorticoso di tournée, album, interviste. Se si è un gruppo, tutto questo comporta lo stare sempre insieme, non avere mai tempo per se stessi. Comprensibile dopo un po' sentire l'esigenza di staccare la spina. Antonella Ruggero, unica donna dei Mattia Bazar, nel 1989, dopo 14 anni, decide di lasciare le scene. Non le interessa, almeno per il momento, intraprendere una carriera da solista. Pensa soltanto di concedersi un percorso di ricerca personale, senza obblighi. Dove? In India. È sempre stata una mia passione, sin da quando ero ragazzina. Sono riuscita a fare i miei viaggi solo nel momento in cui ho veramente fatto un taglio netto, per cui mi sono dedicata alla mia ricerca personale. Anche perché io non vado là per fare la turista, per cui diciamo che il clima che vado a respirare, le persone che vado a conoscere sono sempre molto importanti e utili, ripeto, anche nella creatività. L'India non è un luogo come un altro, è un paese dalle mille sfaccettature che ti entra dentro fino a cambiarti. Antonella fa diversi viaggi, tutti alla scoperta di se stessa, del genere umano e di un modo di vivere che non conosce. Si perde per un po' in quel paese lontano, diversissimo dall'Italia e dalla sua Genova. Incontra una musica diversa, che viene da una tradizione antica, e approfondisce lo studio di una cultura lontanissima, ma che affascina ogni giorno di più. Quando vai là, e non solo in India, comunque in certi luoghi così lontani dal nostro modo occidentale di vedere la vita e di viverla, ti rendi conto che moltissime cose che qua sembrano indispensabili, là sono assolutamente inutili. Per cui il modo di vivere, di pensare, velocemente cambia e ti ritrovi in una dimensione molto antica. È magica e misteriosa ed è quello che incanta molta gente che fa quei tipi di viaggi, insomma. Non è da sola la Ruggero. Ha l'appoggio e il sostegno di un amico e poi marito, che accompagna la sua carriera fin dagli inizi, fin da quando nel 75 aveva fondato con gli altri i Mattia Bazar. Tastierista, arrangiatore e produttore, lui è il secondo magnifico incontro del destino della meravigliosa voce femminile di Genova. Si chiama Roberto Colombo. Roberto Colombo è milanese ed è poco più vecchio della Ruggero. I due si incontrano per la prima volta a metà degli anni 70, quando lei, da corista di piccoli gruppi genovesi, diventa la voce dei Mattia Bazar. Colombo, richiestissimo per la sua esperienza e il suo gusto raffinato, produce gli album della band e concilia questa attività con molte altre collaborazioni. Lavora con la PFM, premiata Forneria Marconi, debutta come arrangiatore nel secondo LP di Ivan Cattaneo e bissa con il terzo, realizzato interamente proprio con la PFM. Non solo, Colombo cura alcuni arrangiamenti di De André ed è autore di 3 album di rock progressive influenzati pesantemente dallo stile e dai suoni di Frank Zappa. Sfogatevi Bestie, del 76, Botte da Orbi, del 77, Astro Olympics, dell'80. Insomma, è quello che si dice un innovatore, un curioso, uno sperimentatore. Sempre attento alle nuove tendenze della musica e aperto alle mille influenze che a suo dire possono arrivare da tutte le parti. Con Antonella inizia un sodalizio speciale, che si regge su una profonda complicità e sfocia in amore. I due si sposano e proprio nel periodo in cui lei sta lontano dal palcoscenico, fanno un figlio. Gabriele. È difficile solo per il fatto che il lato professionale inevitabilmente va a volte a disturbare quello privato, per cui le discussioni si prolungano e non si stacca mai definitivamente. Comunque è una bella avventura anche questa. Dopo 6 anni lontana dalle scene, un figlio e la scoperta dell'India, Antonella Ruggero sente che è arrivato il momento di tornare, non più con i Mattia Bazar, ma da sola. Beh, devo dire che dopo questa vacanza, appunto, durata 6 anni, sentivo la necessità di tornare sul palco con un gruppo davanti al pubblico e di avere col pubblico quello scambio che molto bello che riesco ad avere tutte le sere durante il concerto. Ha lavorato moltissimo su se stessa e sulla sua musica, cercando le contaminazioni dal mondo e dalla storia. Dalla nostra storia, di un'Italia che ha fatto fatica a essere unita, che ha passato 2 guerre, la miseria, la rinascita. La Ruggero, genovese doc, scopre la tradizione e canta un paese che non c'è più, senza nostalgia, ma con la tenerezza del ricordo di chi non c'era, ma se l'è fatto raccontare dai nonni. Sì, per la prima volta ho cantato alcuni brani della tradizione lombarda, quindi in milanese, Dopodiché ho aggiunto altri brani di altre regioni, perché ormai da diversi anni a questa parte ho proprio, tra le altre cose, la passione proprio nella ricerca di ciò che sono appunto le tradizioni legate alle nostre lingue antiche, ai nostri dialetti, che raccontano quello che siamo. La Ruggero trova affinità con quegli artisti che, come lei, fanno della libertà espressiva una bandiera e che usano la contaminazione per approfondire il loro percorso culturale e musicale. E così apre i concerti delle tappe italiane del tour di Sting, mentre suo marito, che lavora con lei a ogni album, curando arrangiamenti e produzione, diventa celebre per aver scritto la sigla italiana della soap opera Beautiful. L'impegno e la difesa dei suoi principi di tolleranza sono punti sui quali la Ruggero non è disposta a trattare, come quando nel 2007 ha detto pubblicamente che non avrebbe partecipato al Family Day, manifestazione schierata contro le unioni di fatto. Il talento di un artista come lei sta nella capacità di percorrere strade parallele, ma molto distanti tra loro. Sanremo da un lato, i piccoli teatri di provincia dove porta i vecchi canti popolari dall'altro. Da una parte, i successi di piazza e la musica pop che il pubblico canta ai concerti. Dall'altro, la ricerca sempre più profonda sulla musica sacra, che nel 2004 l'ha portata unica cantante a cui era stata la possibilità di farlo, a esibirsi nella Santa Casa del Santuario di Loreto. Diciamo che la ricerca, avrei potuto fare una ricerca di canti di tutte le religioni, ma sarebbe stato complesso e diverso. Io volevo invece concentrarmi su quella che è la musica della nostra cultura, per cui c'è una messa africana, una messa creola, altri canti come l'Ave Maria di Gounod, la d'Este Fideles, che tutti noi conosciamo perché appunto fanno parte della nostra cultura cattolica. Il genere che faccio è sacro, è classico, poi ci sono due inediti molto belli e lavoro con un quartetto d'archi bravissimo, di altissimo livello, sono appunto gli Arche Quartet e un percussionista, Ivan Ceccarelli. È veramente un bel progetto, per cui stiamo andando adesso in tournée, ormai da tempo devo dire, in luoghi particolari come chiese, cattedrali, teatri antichi, ed è una grande soddisfazione, proprio perché ho iniziato un altro percorso, che è questo appunto di musica non pop. Ai Magnifici Destini stiamo raccontando la vita e il percorso artistico di una voce unica nel panorama italiano. Quella di Antonella Ruggero, genovese doc che ha vissuto il fervore del capoluogo ligure negli anni 70, quando nella trattoria dei vicoli del centro storico si riunivano De André, i New Trolls e Gino Paoli. Ha fondato con Aldo Stellita, Piero Cassano e Carlo Marrale i Mattia Bazar, con cui è rimasta per 14 anni. Poi la svolta, la scoperta dell'India e del misticismo e la nascita di un figlio avuto dal marito e collaboratore Roberto Colombo, che l'hanno tenuta lontana dalle scene per anni. Il suo ritorno nel 96 l'ha vista dividersi tra due spinte parallele: da un lato il pop di Sanremo, dall'altro l'approfondimento dello studio della musica sacra e l'impegno civile. E oggi, cantando a San Vittore, è stata un'esperienza straordinaria che mi porterò per sempre dentro, così come è stato 10 anni fa, non è stata la prima volta, ma sono esperienze così importanti, così vere, avere a che fare appunto con queste donne, con queste ragazze che si sono divertite, che per un attimo sono andate via di là con la mente, che si sono, non so, le ho viste sorridere, le ho viste comunicare in maniera, penso, diversa da quella che così la quotidianità propone loro. Quindi è stata una gran cosa. Antonella Ruggero riempie ancora le piazze quando canta i suoi successi storici ed è stimata dalla critica più esigente per i suoi percorsi raffinatissimi. Tutto questo mantenendo sempre uno sguardo attento e lucido su quello che succede intorno a lei. Purtroppo anche la musica vive un momento, ormai da parecchi anni la musica, diciamo leggera, la musica pop, perché poi c'è anche tutto il resto, non esiste solo la musica leggera, ma la musica pop soffre di una crisi profonda, data secondo me prima di tutto dal fatto che non si va a cercare all'interno della nostra cultura, ma si va a copiare purtroppo quello che arriva da lontano, e questo è un peccato. Già, che la musica italiana sia in crisi lo sostengono in molti e da tempo. Per fortuna però ogni tanto nasce qualche bella novità che un artista come Antonella Ruggero sta attenta a non lasciarsi scappare. È il 1997 quando la più bella voce di Genova incontra il suo terzo magnifico destino. Loro sono 5 giovani torinesi e hanno appena pubblicato il primo CD che ha attirato l'attenzione di pubblico e critica. Si chiamano Subsonica. Per un'ora d'amore non so cosa fare. Per poterti sfiorare non so cosa. Antonella Ruggero insiste molto con i Subsonica perché incidano Per un'ora d'amore e Il video sono io, brani del repertorio dei Mattia Bazar. Crede che abbiano un talento vero e che rappresentino una musica originale capace di intercettare un'Italia alternativa. L'esperienza l'ha resa lungimirante. Per un'ora d'amore viene scelta come singolo dell'album Registrazioni moderne, che vende più di 180.000 copie. Assolutamente c'è un'altra Italia. Non è vero quello che si vede costantemente in televisione o che si legge costantemente sui giornali, che la nostra società è fatta di persone quasi senza pensiero, senza sensibilità, senza gusto. Io durante i miei concerti, che grazie al cielo sono parecchi, vedo sempre persone attratte dalla buona musica, ma non solo la mia. Gli anni recenti svelano la poliedricità di Antonella Ruggero. È protagonista alla Fenice di Medea, opera video in 3 parti con musica di Adriano Guarnieri. Intraprende un tour con un quartetto di chitarre classiche per reinterpretare vecchi tango e pezzi celebri della musica latinoamericana di Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Juan Luis Guerra e Luis Miguel. Esce con l'album Pomodoro Genetico, firmato con Roberto Colombo, che fa sentire la sua impronta attraverso una base elettronica molto forte. Partecipa insieme a una 50 di artisti italiani al singolo Domani per raccogliere fondi a favore delle popolazioni terremotate dell'Abruzzo e canta anche al mega concerto ideato da Laura Pausini, Amiche per l'Abruzzo, aprendo l'evento con L'Ave Maria di De André. Già, De André, ancora lui, ancora quel simbolo di un'atmosfera genovese che la Ruggero porta sempre nel cuore. Ne ha fatta di strada, è dovuta passare dall'India, ma alla fine è tornata a casa. L'album Genova la Superba chiude il cerchio, dichiarando alla fine quel rapporto d'amore e odio che lega gli artisti a questa città complicata nella quale non si può stare, ma dalla quale non si può stare lontani per troppo tempo. Oltre a De André ci sono Tenco, Umberto Bindi, Lauzi, Fossati, Paoli, i New Trolls. Un omaggio a una generazione che ha sognato a pochi metri dal mare e intorno a un'osteria è riuscita a inventarsi un mondo. C'è un popolo che si muove, che pensa, che appunto ha gusto, sensibilità e vuole cercarsi il bello, la bellezza nella vita. E la musica fa parte, no? Di questo. Così come la scrittura, così come l'arte in generale, ma anche la natura, la tutela della natura. Insomma, ci sono tante persone, ma veramente tante, che fanno sì che non siamo e non andremo mai a fondo per proprio questo motivo, insomma.